Cioccolato, terra sarda, la bandiera sventola. Torno per portarti quello che bolle nella pentola. È una bettola dove ogni regola si sgretola. I matti di frutti, la gente di merda, eccola. Nevo, lo so che è nato tutto in strada. La break, il rap e pezzi metropolitana. Rispetto per la Zulu e per la cultura africana. Il Rastafari, il reggae e la gente giamaicana. Perciò son sempre pronto quando il dovere mi chiama. Se salgo sul microfono la gente salta in aria. Se son 10 o son migliaia si accende questa caldaia. Più dai, più ricevi, e questa cosa è straordinaria. Lo so che per molti è niente, ma per me è importante fare le canzoni anche se non sono un cantante. Stare sopra un suono che sia leggero o pesante. Mandare un messaggio che arrivi molto distante. Perché un esercizio richiede impegno costante. Sono rime in metrica su cassa e rullante. Non ci sono troie né Mercedes né spumante. Per dare il mio amore a tutte le persone sarde. Per i writers con le bombolette grida jump jump. Per i breaker sopra il pavimento grida jump jump. Per i DJ chi fa i beat grida jump jump. Per il cioccolato bianco in si grida jump jump. Per i writers con le bombolette grida jump jump. Per i breaker sopra il pavimento grida jump jump. Per i DJ chi fa i beat grida jump jump. Per il cioccolato bianco in si grida jump jump. P.O. con i beat, cioccolato con il mix. Sono pronti per portarti un altro viaggio su CD. Per tutti i nostri amici la cricca di frutti di. Per quegli affezionati che ci hanno aspettato qui. Per chi ci ha sempre dato stimoli per muoverci. Per chi non ci ha capito un cazzo ed è rimasto lì. Per chi ci ha detto no, per chi ci ha detto sì. Per chi non ha mai avuto il coraggio di sfidarmi. Seguimi, cucci, che questo è l'R.A.P. Non l'ho inventato io, Nevo, ma funziona così. Si preparano gli spliff, si fanno girare i drink. Si rappa 40 secondi a testa sopra il ring. E per il gusto di sfida che io faccio l'MC. Per distinguermi dai rapper falliti di serie B. Per dare merda a chi si credeva il king. Per la scimmia di confrontarmi con altri uomini. Prendimi una C più una B, stile free. Goditi lo spettacolo, balla e divertiti. Muoviti lo zii, ascoltati il ragamuffin film dell'uomo che ha portato su sono originali. Per i writers con le bombolette grida jump jump. Per i breaker sopra il pavimento grida jump jump. Per i DJ chi fa i beat grida jump jump. Per il cioccolato bianco in si grida jump jump. Per i writers con le bombolette grida jump jump. Per i breaker sopra il pavimento grida jump jump. Per i DJ chi fa i beat grida jump jump. Per il cioccolato bianco in si grida jump jump. Zinigas, tre uomini sul palco grida jump jump. Signore e signori è riaperta la locanda. Entri, ti siedi, ascolti musica alta. I Mansarda, Lucchi e Pepi fino a notte tarda. Suonando mille giri, provando mille murighi. Preparando la bomba che esplode nei concertini. Per restare più vicini, per spezzare tutti i fili. Per gonfiarci con gli erbini, per abbattere i confini. Perché oggi è sempre meno la gente di cui ti fidi. Lo sai che se dai troppa confidenza ti rovini. È pieno di caghini, lecchini, di burattini. Di falliti invidiosi che pensano solo ai quattrini. Mischini, lo fanno per la gioia dei bambini. Col pubblico di una jam ci riempi quattro asili. Vampiri, non succhiano il sangue, fanno pompini. A chi come me ha valori genuini. L'hip hop è la tua vita, il mezzo con cui ti descrivi. È l'aria che respiri, la strada su cui cammini. Per questo non ho fretta che un tornaconto mi arrivi. Perché il signore dice gli ultimi saranno i primi. Per i writers con le bombolette grida jump jump. Per i breaker sopra il pavimento grida jump jump. Per i DJ chi fa i beat grida jump jump. Per il cioccolato bianco MC grida jump jump. Per i writers con le bombolette grida jump jump. Per i breaker sopra il pavimento grida jump jump. Per i DJ chi fa i beat grida jump jump. Per il cioccolato bianco MC grida jump jump.